Allora, grazie, buonasera a tutti, sono Isabella della Ragione e non è vero che sono una giramondo, in realtà io faccio girare molto i miei studi, ma alla fine rimango molto legata alla mia terra. E questo è il senso del nostro lavoro, del lavoro mio e del mio babbo, questo non è un caso che dal mio babbo sia passata a me, è proprio il senso delle radici che passano da una generazione all'altra e queste radici portano con sé un sapere che è un sapere antico e che io mi sono presa la responsabilità di conservare. Il lavoro che è stato fatto è un lavoro, è un esempio di lavoro che in un territorio, il territorio è il centro Italia, quindi tra Toscana, Umbria e Marche, la nostra valle che è l'Alta Valle del Tevere, una valle che è un incrocio di diverse regioni ed è stato per secoli passaggio di pellegrini, passaggio di commerci, passaggio di tante cose, per questo è anche una situazione estremamente interessante. E devo dire che proprio questo fatto di essere una zona di incroci, passaggi, scambi la avvicino molto a questa area. Le zone di confine, le zone di passaggio sono da sempre zone straordinarie, straordinariamente interessanti, perché vi ricordo che noi parliamo non di piante selvatiche ma di piante coltivate, quindi intimamente legate con quello che è la vita dell'uomo e tutte le sue attività. Per questo un po' è un esempio di come noi abbiamo lavorato nel nostro territorio e la mia presenza qui vuole in qualche modo essere da supporto e da stimolo e anche da confusione, perché normalmente uno parte con delle certezze, in realtà durante la ricerca e durante il lavoro queste certezze, grazie a Dio, se ne vanno e cominciano a aprirsi degli orizzonti che all'inizio della ricerca uno non si aspetterebbe mai di trovare. Allora, la ricerca è partita, vi dicevo, in questi luoghi che sono luoghi di alta collina, montagna, aree di confine in questo caso regionali, confine tra delle aree uniformi come potevano essere appunto le aree nostre, aree marginali perché l'agricoltura da noi è diventata nelle aree vallive, nelle aree di valle, un'agricoltura intensiva, quindi ed ha lasciato invece negli anni 50 e 60 le aree di alta collina e di montagna all'abbandono quasi completo. Proprio in queste aree marginali ovviamente si sono trovate la maggior parte delle varietà, perché nella zona di valle dove l'agricoltura era diventata intensiva, quindi grandi macchine, grandi campi campi piani molto regolari hanno fatto sì che negli anni, soprattutto negli anni 50, tutto quello che dava fastidio al passaggio delle macchine, alla regolarizzazione dei campi, venisse tagliato. E tanto bene sono state tagliate centinaia e centinaia di piante da frutto che a quel punto erano, inutili all'agricoltura intensiva. È ovvio che questa visione, che potrebbe essere una visione romantica e molto bucolica, in realtà nasconde ovviamente una grande difficoltà di lavoro per chi lavorava questi terreni. Erano terreni difficili, erano terreni poveri che non è che davano tanto reddito, era difficile anche la vita in questi territori, perché erano veramente zone marginali. Voi pensate che, insomma, fino agli anni 50 c'erano tante zone che erano raggiungibili solo a piedi, e la gente non c'aveva le macchine, l'elettricità o quant'altro, per cui erano zone veramente difficili in cui vivere. Un'altra zona molto interessante, un punto interessante, ovviamente, sono stati i conventi. Io vengo da una città, che è Città di Castello, dove fino allo scorso secolo c'erano 36 conventi. Ce ne sono rimasti solo 4 di clausura, parlo. Allora, gli orti di clausura, i conventi di clausura avevano grandissimi conventi, perché voi sapete che soprattutto la regola di San Benedetto, i francescani non c'avevano neanche il convento perché avevano fatto voto di povertà e quindi non c'avevano nulla. I benedettini invece avevano dei grandi conventi, e anche le suore benedettine, però il voto era, allora, non mangiavano carne assolutamente. In alcuni conventi era permesso il consumo del pesce, tant'è che c'erano le peschiere proprio per il consumo del pesce, ma la carne assolutamente era totalmente proibita, perché la carne, voi sapete che era, come dire, portava, la carne era un, come dire, era troppo carnale, ecco, non so come spiegarmi, era questo, allora era assolutamente proibita. Quindi è ovvio che i conventi normalmente avevano dei grandi orti in cui si coltivava ogni ben di Dio che riguardava il vegetale, quindi piante da frutto, piante officinali, medicinali per la cura delle malattie degli esseri umani e tutto quello che serviva alla vita autonoma del convento. Era una sorta di potere autarchico che produceva tutto quello che gli serviva, e quindi spessissimo si trovavano quasi delle collezioni di piante da frutto, perché chiaramente quella era una cosa molto importante. Questo che vedete è il convento delle suore benedettine di Norcia, un convento grandissimo, quella che vedete è Suor Lucia, che è la suora ortolana. Purtroppo questa condizione, di conservazione, di chiusura, in realtà è molto cambiata. Suor Lucia è una delle poche suore ortolane che è rimasta, perché in effetti delle suore ortolane ce ne sarà, appunto, lei, credo, poche altre. Di fatto anche loro si servono delle persone da fuori che arrivano, vanno a prendere i semi al consorzio agrario piuttosto che al negozio, comprano una bustina della semente olandese e seminano quello che hanno nel convento, per cui anche questo senso di conservazione che ci poteva essere in passato è quasi completamente scomparso. E poche cose si ritrovano ancora. Io devo dire che quando ho cominciato questo lavoro ancora qualcosa si trovava. Non c'era stato il giubileo, molti conventi si sono trasformati, molti orti dei conventi si sono trasformati in fantastici parcheggi. I pellegrini avevano le macchine, quindi sono stati addirittura spianati questi orti. Però devo dire che, allora, un altro aspetto interessante, perché si parla sempre di luoghi ameni, di luoghi marginali, di luoghi di montagna, in realtà non è vero che si trovano cose solo in questi luoghi ameni. Questo è un luogo, a vederlo, è un luogo disastrato. In realtà è la valle di Terni. Terni è l'unica città industriale che abbiamo in Umbria, e è la valle di Papigno. Allora, questa zona industriale in realtà completamente abbandonata adesso, fu messa in piedi all'inizio del Novecento, del 1900, per dare, come dire, sviluppo e benessere a questa zona, Questa era una zona invece famosissima nel periodo del Grand Tour, quindi nel Settecento, tutti i turisti dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia arrivavano, passavano da questa valle dove ci sono le cascate delle Marmore. Allora, voglio dire, la cascata delle Marmore è una cascata fatta dai Romani, non è una cascata moderna. E diciamo questa sistemazione idraulica fu fatta dai Romani, e loro, tutti i turisti, passavano con quest'idea della questo straordinario luogo ameno e fantastico, con tutte le piante da frutto. Ci sono descrizioni di piante da frutto incredibili, tra cui questa pesca, che è una pesca detta pesca di papigno, che era famosissima fin in Inghilterra. Fu portata nel 1800 anche alla corte della regina d'Inghilterra. C'è tutta una vicenda di intrecci amorosi, per cui uno era scappato dalla corte inglese, era venuto lì, aveva conosciuto questa pesca e chiaramente se l'era portata in Inghilterra. Per cui, diciamo, questa pesca era, come dire, un prodotto incredibile di questo luogo. In realtà scomparsa non appena o subito dopo il paese fu abbandonato per inquinamento. In realtà questa fabbrica messa lì prima per il carburo, che sapete era per l'illuminazione, subito dopo, quando il carburo non serviva più, si trasformò in fabbrica di calciocianammide, che è un ammendante che si usa in agricoltura. In realtà i fumi e le polveri che venivano da questa fabbrica determinarono un enorme disastro ecologico, diciamo, di inquinamento, che fece abbandonare il paese. Allora, negli anni 60 non fu detta questa cosa, ma tuttora, se voi andate in questo paese, le case sono coperte da mezzo centimetro di polvere grassa che andava sui muri delle case, ma andava anche sui polmoni delle persone. Quindi in realtà questa pesca era lì, era coltivatissima lì, e quando le persone abbandonarono questo luogo, in realtà anche la pesca fu completamente abbandonata. Era proprio intimamente legata a questo luogo, ma questa era una pesca che era coltivata fin dal 1600 lì, in questo luogo. Quindi, però, per dire che spesso anche in luoghi impensabili si trovano delle risorse. Ovviamente questo lavoro è stato un lavoro di chilometri e chilometri fatti a piedi, perché voi sapete bene che le piante da frutto in macchina si vedono poco e le risorse si vedono poco. Bisogna camminare, avere tanta pazienza e tanto tempo. E comunque, diciamo che questo lungo camminare all'inizio ci ha portato all'incontro di tante piante che io chiamo piante orfane, perché in realtà sono da noi la frutticoltura non è una frutticoltura, come più o meno qui non è una frutticoltura estesa e intensiva, è una frutticoltura familiare fatta di piante singole, spesso una, due, tre piante, melo, il pelo, il susino oppure il sorbo e qualcos'altro, che erano, come dire, collegati alla vita dell'agricoltore. Anzi, l'agricoltore, come dire, viveva spesso di questi frutti. Adesso, chiaramente, nel lavoro di ricerca, quello che abbiamo trovato, ma poi quello che abbiamo visto anche ieri qui, cioè le piante ovviamente esistono, continuano ad esistere, perché un signor pero dura 300 anni, quindi, voglio dire, anche se non gli si fa nulla, perché tra le piante da frutto il pero è quella tra le più longeve, quindi, a parte l'olivo chiaramente, però è chiaro che rimane la pianta, rimane l'albero che continua a produrre, ma le persone che in qualche modo erano legate a questa pianta ed erano, come dire, quelli che vivevano insieme a questa pianta, in realtà non ci sono più. Non ci sono più testimoni, Questo è il grande problema. Sulle piante da frutto. In realtà si continuano a trovare, quello alla vostra sinistra è un susino, l'altro è un pero che vedete già lì lì per partire. In realtà appunto si continuano a trovare le piante, ma non si trova più chi testimonia la storia di queste piante. Io dico sempre che da una parte purtroppo le piante non parlano e quindi non si riesce a capirne la storia ad una lettura superficiale, poi approfondendo il rapporto con la pianta si capiscono molte cose, ma da una parte anche per fortuna, perché secondo me ce ne direbbero chissà quante queste povere piante da frutto. Quindi diciamo che questo è un pero, un signor pero, come dire, che chiaramente erano, come dire, dei segni anche estremamente importanti nel paesaggio. Le piante da frutto non avevano solo la funzione di produrre frutti, anzi era una funzione quasi secondaria, diciamo, ma comunque una delle funzioni. In realtà un pero come questo era coltivato per produrre legno. Il legno di pero è un legno straordinario con cui si facevano le madie per tenere il pane. Allora, e quindi erano i segni dei confini, i peri o i meli erano, come dire, delle piante che segnavano il confine, erano, come dire, delle piante, figure importanti, erano piante da ombra. Insomma, da noi l'ombra era importante, perché quando si mieteva il grano e si mieteva a mano, e l'ombra era, come dire, una cosa importante quasi quanto l'acqua, Quindi anche avere queste grandi piante che facevano ombra nel campo, vicino al campo, eccetera, era una cosa importante. Quindi una delle e ovviamente producevano anche i frutti. Dicevo prima testimoni muti. Allora, questa è stata la grande difficoltà. Come farli parlare, come far, diciamo, riraccontare la loro storia a queste piante. I metodi sono stati molti, i sistemi, i tentativi sono stati in molte direzioni. Una è i vecchi testi di agricoltura, ma voi sapete bene che, come dire, la cultura rurale, la cultura contadina non è una cultura scritta, è una cultura orale. Allora nei testi di agricoltura spesso si trova ben poco della cultura contadina. Si trovano però delle descrizioni importanti, anche perché tenete conto che i testi di agricoltura erano, come dire, scritti in maniera straordinaria. Non c'era una divisione tra una cultura letteraria e la cultura contadina. La cultura era una, e tanto bene si scriveva di chi scriveva di agricoltura spesso era anche un letterato, quindi era, come dire, una conoscenza importante quella dell'agricoltura. Certo, Boccaccio, che scrive sul Decamerone, e Boccaccio non era uno qualunque, voglio dire, chiaramente, nel Decamerone lui descrive alcune cose straordinarie, delle osservazioni che solo uno che stava lì poteva dirmelo, perché se lui mi dice: io passeggio per sentire il profumo del fiore della vite, e questo mi descrive il profumo del fiore della vite, vuol dire che lui l'ha sentito. Allora, chi di noi adesso sente il profumo dei fiori della vite? Anche perché molti vitigni non ce l'hanno più il profumo, ma alcuni ce l'hanno. Allora io vi invito a andare in un vigneto e sentire il profumo del fiore della vite, che è un profumo straordinario, non così forte, ma un ottimo profumo. Per cui ci sono delle cose che anche i letterati scrivevano, però ripeto, la difficoltà è comunque sempre questa, che c'era comunque un diverso sentire tra la cultura rurale contadina, che non scriveva e non leggeva, e la cultura diciamo dei libri, e chi la scriveva erano normalmente i letterati, che quindi avevano sì un buon rapporto, ma non erano contadini. E contadino, l'agricoltore tramandava di padre in figlio oralmente il suo sapere. Da noi ci fu un periodo molto importante, le cattedre ambulanti di agricoltura erano un altro grande sistema di divulgazione e per me sono state un grande, una grande fonte di informazioni. Le cattedre ambulanti di agricoltura furono istituite negli anni 20 per istruire gli agricoltori ad un'agricoltura tra virgolette moderna, diciamo, no? È chiaro che lì venivano descritte, spessissimo venivano descritte molto le razze animali, eccetera eccetera, e le razze e le varietà da conservare, le varietà moderne da introdurre, tant'è che io da lì per esempio mi sono resa conto quanto delle varietà moderne introdotte in quel periodo, parliamo degli anni 20, quindi sono passati 80 anni, spesso e volentieri qualche agricoltore o qualche persona diciamo che sta in campagna mi viene e mi dice: ah, questa pera strana, questa mela particolare. Alla fine poi si viene a vedere che in realtà sono varietà introdotte in quel periodo e sono varietà tra virgolette moderne, commerciali, magari coltivate male, per cui viene fuori la pera banana come la pesca noce o la pesca susina, però la pera banana io poi ho visto che era una batefetel venuta male, ma era così tanto allungata che era, e in quel periodo furono introdotte molte varietà moderne, la calvilla o l'arenetta ananas ci sono anche da noi, sporadiche, ma ci sono, introdotte in quel periodo perché era il periodo della frutticoltura moderna, e così anche altre varietà e altre specie coltivate, però è una fonte. In realtà è come un grande puzzle, e allora io informazioni, piccole informazioni da tutte le parti. È chiaro che la descrizione, le mele lisce, sapete voi che possono essere qualunque le mele lisce, ovviamente, anche perché vedete che queste, le foto sono in bianco e nero, non è che sono colorate. Un'altra fonte straordinaria, anche lì da prendere con le pinze, sono ovviamente le antiche riproduzioni. Le antiche riproduzioni sono, come dire, la testimonianza di un passato in cui non c'era altra fonte di documentazione. Per cui è chiaro che io, se guardo un quadro del Crivelli, Crivelli è stato un grande pittore veneziano di origine, ma che operò tantissimo nelle Marche, quindi estremamente vicino a me. Allora, è un tentativo, me rendo conto, anche perché il Crivelli, come altri, non erano illustratori botanici, erano artisti, erano pittori, e vedete che diciamo il soggetto principale è la Madonna col bambino, non è certo la mela. E le mele e la frutta venivano messe perché avevano una grande importanza simbolica. Ma è presumibile che ovviamente non essendoci frigoriferi, non essendoci grande possibilità di scambi in quel periodo, il buon Crivelli, che ha dipinto queste tavole nelle chiese di Macerata o di Foligno, mi abbia preso a modello delle cose che poi aveva, come dire, a disposizione. Tant'è che io poi mi sono un po' divertita, ovviamente prendetela anche questa con le pinze, perché in realtà c'è, come dire, l'interpretazione artistica c'è, però una somiglianza, perché no? Allora, questa è una delle tante mele muse che noi troviamo. Allora, il divertimento ovviamente poi è proseguito, perché a questo punto la Giovanna Garzone, più tarda, anche lei, era una delle poche donne pittrici, in realtà lei ha dipinto per i Medici a Firenze e ha ovviamente preso a modello molte varietà che i Medici avevano in coltura nei loro pomari, nei loro frutteti, e io lì mi sono divertita per esempio a fare il confronto con le susine, ma insomma di queste cose ce ne sarebbero molte. Quelle che vedete in fondo, in realtà gli storici dell'arte me le hanno descritte come piccole melograne, non so dove l'hanno vista il melograno, in realtà sono piccole pere. È ovvio che la pera in questo caso è difficilmente riconoscibile da parte di uno storico dell'arte, ma per noi che ci occupiamo di frutta, una pera è una pera, anche può avere anche una forma strana, ma è sempre una pera. Oppure il Bartolomeo Bimbi, Bimbi lo stesso, Bimbi ha come dire, dipinto questi quadri straordinari che sono come dei cataloghi. Vedete che ci avviciniamo sempre più a una riproduzione fedele alla realtà. Il Bimbi in questi quadri che sono sempre a Firenze, in realtà ci ha messo anche i nomi di queste varietà. In fondo ai quadri c'è l'elenco di tutte le varietà descritte e dipinte nel quadro. Queste sono ciliegie, la ciliegia bianca, per esempio, la ciliegia che era diffusissima tra la Toscana e l'Umbria, adesso ovviamente è come tanta frutta scomparsa, perché la ciliegia bianca sembra non matura. In realtà proprio per quello io la salvo dagli uccelli, perché gli uccelli pensano che non sia matura, per cui se ne vanno, e io vado, yuhu, me la salvo, se no quell'altra io non le salvo. Questa invece rimane così, per cui anche quando è matura agli uccelli non gli sembra matura. Ovviamente il Gallesio, e siamo già nell'Ottocento, è la riproduzione molto fedele. Il Gallesio è colui che fece la prima pomona italica, quindi una vera pomona, descrisse e dipinse delle varietà di mele, pere, susine, fichi e uve, e ovviamente in questo caso la riproduzione è abbastanza fedele, quindi ci aiuta molto di più. Questo è un fico dottato, rimasto praticamente uguale. La cosa interessante però è che queste varietà, in realtà la ricerca di queste varietà ci ha portato anche a vedere che di fatto non è vero che le varietà non camminano. Le varietà camminano, e come? Perché sono legate intimamente alla vita dell'uomo. L'uomo va, viaggia, cammina, si sposta, migra, ritorna, vende, compra, sicché tutta questa storia in realtà si può perfettamente, si può leggere in maniera molto interessante proprio negli spostamenti delle varietà da frutta. La frutta era, voglio dire, una delle cose che si portavano di più, si commerciavano di più, si vendevano di più. Da noi c'era questa figura del frate cercatore, questa è una fotografia, non è un dipinto, è una fotografia. Il frate cercatore era quello che dai conventi, era normalmente un francescano, che andava e portava, si spostava di luogo in luogo cercando e facendosi dare la carità in natura, quindi frutta, quindi semi, quindi, e lui in realtà li portava di convento in convento, si spostava, ed era un veicolo, come dire, straordinario di spostamento, ma come i pellegrini. Pellegrini lo stesso, voglio dire, se voi, io ho provato a seguire delle vie di pellegrinaggio, in realtà le vie di pellegrinaggio, come le vie commerciali, erano delle vie di flusso di varietà, di piante, di spostamenti incredibili. E tant'è che una cosa importante, per esempio, è la verifica proprio dei tracciati delle strade, delle antiche strade, perché la gente poi si spostava sulle strade tracciate, ovviamente, perché era un po' pericoloso spostarsi così nei boschi selvaggi, perché c'erano i briganti, non si sapeva mai, altro che adesso, insomma. E quindi questo discorso, per esempio, delle vie, gli antichi tracciati, spesso c'è proprio un legame stretto tra lo spostamento di una varietà e il tracciato di una strada. Io ho provato a farlo, per esempio, con questa varietà che è una mela panaia, la mela panaia è una mela toscana, che io ho ritrovato, anzi la panaia è questo cesto, che è il cesto per il pane, il nome panaia. Allora, questa mela io l'ho trovata in Toscana, l'ho trovata a cavallo vicino alle Marche, tra le Marche e l'Umbria, una zona che si chiama Pietralunga, l'ho trovata a Norcia e a Preci, quindi Val Nerina, molto lontano, e l'ho trovata in Abruzzo. In realtà tra la Val Nerina e l'Abruzzo il passaggio è abbastanza comprensibile perché c'era un grande passaggio di pastori. Quello che non capivo era come aveva fatto arrivare lì dalla Toscana, perché eravamo lontani. In realtà io ho visto nei studiando negli archivi comunali che di fatto c'era un grande commercio tra Preci, che produceva lame di coltello, e il Granducato di Toscana. E quindi c'era tutto questo commercio. Chiaramente la gente non si spostava mai solo con lo stretto necessario. Se tornava a casa, tornava a casa anche con qualcos'altro, oppure vendeva anche qualcos'altro. Per cui in effetti in questa zona, per esempio, di tra Preci e Norcia ci sono tantissime varietà toscane, proprio per questo motivo di antica data, perché parliamo dell'inizio del Settecento, quindi da questo punto di vista è molto importante anche appunto studiare poi la storia delle attività umane e dell'economia, di come si sono spostate poi queste persone. Questa è la mela panaia, che è una mela eccellente, straordinaria. Le antiche mappe, lo stesso, con lo stesso significato, perché la distribuzione spesso era appunto precisa e puntuale, e nelle antiche mappe io ho ritrovato molte informazioni. È chiaro che, come dire, la fonte principale sono loro, sono gli agricoltori. Ora, la Nerina, siamo tutti sopra gli 80, qui di giovanotti non ce n'è nessuno. Però loro, come dire, loro sanno bene, riconoscono bene e si ricordano molto bene, perché questa è gente che ci ha vissuto con questa frutta, cioè ha vissuto tante volte proprio grazie a questi prodotti. Qui siamo in zona di montagna, qui siamo la Nerina e di Cerreto di Spoleto, siamo nella Val Nerina più profonda, in una zona che va sicuro ci sono ancora i lupi, c'è tutto quello che serve, come dire, per di contorno ad una zona selvaggia. La sergia lo stesso, voglio dire, la sergia c'è la stessa età del mio babbo, era una donna straordinaria, una donna che in Italia durante la resistenza molti partigiani riuscirono a resistere anche grazie a queste donne che facevano il pane, rischiavano la vita per salvare. Lei ha salvato anche poi chi capitava, devo dire la verità, la sergia, arrivavano i soldati, quella dice ma vabbè, un pezzo di pane bisogna darglielo, e glielo davo. Per cui sono figure in realtà che erano, come dire, loro stavano lì, erano nella loro montagna, e passava, ci avevano ancora questo concetto del pellegrino, insomma, no? Il pellegrino non gli si nega né il pezzo di pane né nel frutto. E per loro i soldati che arrivavano e che magari si ritiravano, erano scappati alla fine, i tedeschi no, però i tedeschi non. Per dire, anche la sergia era una che in realtà mi ha raccontato tantissime cose, ancora si ricorda benissimo di quali sono le varietà di frutta e di verdura che loro ancora coltivano, peraltro. Quindi e varie, questa è una carrellata, come dire, dei personaggi che è chiaro che con queste persone Arcangelo di Forcatura, per esempio, lui ha 93 anni. Allora io, per poter sapere informazioni da questo signore, in realtà non sono andata lì con il fogliettino facendogli le domande, dice allora quale varietà coltivavate? Lui in realtà all'inizio, come dire, mi ha guardato, come dire, ma perché vuole sapere come si viveva? Perché per loro è una cosa molto strana che si torni a chiedere a loro questo passaggio di informazioni, visto che negli anni 50 e 60 nessuno più ha voluto sapere niente di questa vita contadina che hanno tutti rinnegato. E loro addirittura, anche loro, alla prima domanda che gli si fa, la prima cosa che rispondono, ti dicono: ah, ma io non mi ricordo niente. No, non c'è più niente, non mi ricordo niente. In realtà, mano a mano, con Arcangelo, ma sta mela, ah sì, questa era lassù, e lì partono. E lui però, io sono stata lì un giorno e mezzo, perché lui è partito dal 1920, quando è arrivato il primo aratro di ferro. La prima grande rivoluzione è stata quella. Poi nel 35 è arrivato il trattore, insomma il trattore, vabbè, la macchina, e poi via via. Allora, è chiaro che i racconti e questo sapere non può essere un sapere limitato, cioè è che questa voglia anche di raccontare, uno deve mettersi lì con grande pazienza e ascoltare. Cioè, la cosa che diciamo io ho imparato in questo lungo lavoro di ricerca è stata quella di imparare ad ascoltare, perché la cosa sorprendente per loro era che qualcuno li ascoltasse ancora, perché era una cosa, e per me era, come dire, un fiume di informazioni, perché, ripeto, non è solo la singola varietà o la singola pianta, è la singola pianta faceva parte di un mondo, e così ha senso. Se noi andiamo a ricercare il mondo e il sapere che stava intorno a quella pianta, se no ci sono delle collezioni straordinarie di piante, andate all'Università di Bologna, andate in Inghilterra, ci sono delle straordinarie collezioni dove ci sono 20.000 accessioni diverse, cioè 20.000 piante diverse, cioè. Però non è il senso della collezione quello che ci interessa, il senso è il salvare il sapere, il salvare questa cultura, il salvare, cioè essere ancora una volta, come dire, i depositari di una cultura, è questo. Ed è la cosa più difficile, non è così facile, perché c'è bisogno di tempo, di pazienza e di, come dire, di grande anche, a volte, no, sapete che insomma, gli anziani si ricordano magari una cosa di 80 anni prima e non si ricordano ieri, ma ieri che ha mangiato Arcangelo? Boh, lo sa. Per cui insomma va un po' preso sempre con le molle, però devo dire che questa è il grande rapporto con le persone che che sono i testimoni di questa cultura, è questo, è, come dire, la cosa più importante. È quello che in qualche modo abbiamo cercato di fare, è stato proprio quello di riallacciare questo filo che si era interrotto. Questa è una foto a cui io sono molto legata, perché questi sono zio e nipote. È ovvio che lo zio si chiama Arcangelo, anche questo, si vede che poi i nomi si giravano. Allora, Arcangelo sta in questa azienda vicino a Colfiorito, siamo nella montagna più sperduta, tra l'altro terremotati, quindi. E lui vive con le sue piante, cerca di, come dire, istradare il nipote. Dice: ma il mio nipote, ma lei, sarà lui che dovrà prendere in eredità la mia azienda. Il nipote, in realtà, a noi che andavamo lì, no, a cercare le più frutte, la sua, come dire, massima aspirazione era quella di trovare moglie. Allora dico: guarda Marcello, dico, vabbè, te troviamo, adesso ti mettiamo nella lista. Dico: io già ho dato, quindi non posso, però magari, che ne so, troviamo qualche collega disposta. Quella è la sua aspirazione, cioè lui va in giro con la Mercedes, giacca di pelle, e questo è, come, l'occhiale giusto, a lui delle mele, della mela muso di bue che abbiamo visto stamattina, piuttosto che della culo d'asino, non gliene importa nulla. Quindi, perché qualcosa si è rotto, qualcosa si è interrotto, allora è questa memoria che in realtà è caduta, a un certo punto è caduta nel vuoto questo passaggio, Allora, questo riallacciare i fili è difficilissimo. Difficile perché non tutti li vogliono riallacciare, sti fili. Lui non li vuole riallacciare. Insomma, l'altra parte, ognuno fa delle scelte, no? Però diciamo che un tentativo deve essere fatto. Per cui, quando abbiamo cominciato ad andare a cercare le piante, quello che abbiamo fatto noi è stato quello di salvarle. Cioè, non ci siamo preoccupati di come, che cosa, se c'erano dei doppioni o che. Siamo veramente corsi a salvare, perché 20 anni fa ancora si trovavano delle cose, ma ogni giorno io vedevo scomparire qualcosa. Che voi sapete che, cioè, se c'è una varietà, una pianta, se io taglio quella pianta, la scomparsa è definitiva. Cioè, non esiste una ricomposizione, non c'è ingegneria genetica che tenga, voglio dire, nessuno mi ricostituisce la pera cocomerina o la mela culo d'asino, cioè non esiste, è scomparsa ed è definitiva. Allora la grande preoccupazione nostra è stata quella di salvare quello che era possibile salvare, cercando di salvare anche, come dire, tutto il sapere che c'era intorno a queste piante. Perché se io salvo la pera cocomerina, sì, è curiosa perché è pera briaca, si chiama da noi pera briaca perché è rossa dentro, o piuttosto la pera vernia, però se io non salvo anche gli usi e come veniva utilizzata e perché veniva coltivata, quasi che perdono gran parte del loro significato. Sì, rimane il significato genetico, rimane il significato botanico, ma la loro forza era che erano così collegati e legati alla vita delle persone che erano diventati indispensabili questi frutti. La pera vernia era una delle tante pere invernali che veniva conservata sotto aceto, perché da noi l'aceto ce n'era tanto, perché il vino non lo sapevamo fare, quindi giù aceto. Allora l'aceto era, come dire, abbondante e veniva conservata sotto aceto. D'altra parte è anche una tradizione quella di la frutta non veniva, difficilmente veniva consumata come dessert, come fine pasto, perché il pasto era povero, ma insomma in genere veniva consumata per esempio con la carne, col pesce, come dire, era un contorno, era una verdura, ecco, quindi era considerata un po' questo. Pere da cottura tipo questa che veniva consumata con le castagne, ci facevano un'ottima zuppa, questa è una pera, la chiamano pera papera, perché c'ha sto collo così, pera Monteleone, ma insomma è una pera che a tuttora viene coltivata, anche perché la pera invernale si conserva, viene consumata con le castagne. Le pere d'ammezzimento, che quelle che diciamo, l'ammezzimento è la sovramaturazione, sarebbe, no? Quando diventa come il cachi si mangia quando è sovramaturo, no? Quando si ammorbidisce vuol dire che è ammezzito. Allora, è ovvio che se io arrivo nel mercato con una pera così, tutti mi dicono: ma questa è andata male, e no, non la voglio. Ma in realtà queste pere si mangiano solo così e sono eccellenti. È chiaro che è un gusto che adesso, come dire, è un gusto diverso, no? Non è un gusto che noi ci aspettiamo. Quella che avete visto prima era quella che intravedete, la pera marzola, per esempio. Quella si raccoglie a dicembre e si mangia a marzo. Quindi è una pera tardiva, fiorisce alla fine di maggio, quando gli altri peri hanno già le pere. Quindi è una pera molto tardiva. Però per dire come sono cambiate tante cose anche nel gusto. Le pere estive, lo stesso. Le pere estive, perché non ci abbiamo più le pere estive? Che sono dolcissime e ottime. Ma per un problema, perché in realtà la pera estiva deve essere raccolta e mangiata. Allora, in questo momento è impensabile poter avere un frutto che non si conserva e che non si può portare al mercato di non so dove, no? Queste pere hanno un brevissimo periodo tra la raccolta e il consumo, per cui sono buone per i mercati locali, sono buone per il consumo familiare, ma non possono essere trasportate come adesso viene fatto da capito, da Milano alla Sicilia o viceversa, o da Roma a Berna, queste non lo sopporterebbero mai. Per cui tutte queste varietà estive da consumo immediato sono state, come dire, abbandonate. E questo è una grande perdita, perché sono spesso delle varietà straordinarie come frutto, come dolcezza, come profumo. Noi che facciamo adesso? Importiamo. Noi in Italia, nonostante l'Italia sia il secondo produttore mondiale di pere, siamo secondi solo alla Cina, quindi non vale neanche, in realtà noi importiamo le pere dall'Argentina. Cioè, e poi il bello è che importiamo le stesse varietà che coltiviamo, capisci? Cioè, importiamo la pera coscia, che è una pera estiva, che prima veniva coltivata in Veneto e adesso viene coltivata qui. Noi coltiviamo per l'80% in Italia, parliamo di 1.800.000 tonnellate di pere, 5 varietà. Quindi, cioè, tutta questa biodiversità, ma erano migliaia le varietà, è, come dire, apparentemente volatilizzata. Sono un po' pesante, queste fotografie scorrono male. Due pere antiche, l'ho messo tra virgolette, perché io in realtà non parlo mai di pere antiche, perché insomma sull'antico bisognerebbe insomma capire che cosa si intende. In questo caso però io ho dei riscontri in letteratura, diciamo, e se ne parla di queste pere. Questa è una brutta e buona toscana, ho detta anche pera bugiarda, ovvero anche inganna villani, perché tutto quello che è rugginoso è considerato brutto. Stamattina, dicevo prima, è venuta la signora qui, mentre stavamo preparando, c'erano le mele ruggine, la grigia, la renetta grigia, e lei ha detto: ah, ma queste sono velenose. Dico: no signora, veramente sono fatte così, sono mele coltivate. Io ho sempre pensato che fossero velenose. Per cui dico, quest'idea del rugginoso, velenoso, o comunque non buono, è rimasto evidentemente. E quest'altra invece è proprio una pera molto, molto, diciamo, antica, perché questa è una pera fiorentina, pera invernale. Io ho trovato descrizioni sugli archivi dal 1400 fino al 1700. Questa pera è descritta, consumata, coltivata, scambiata. Poi a un certo punto scompare, non so perché, probabilmente perché sono arrivate altre varietà, e quindi diciamo a quel tempo moderne, e quindi è scomparsa. Ovviamente le mele, è chiaro che la mela è molto più diffusa della pera, per motivi proprio banali. Cioè, la mela è uno dei frutti più coltivati al mondo. Credo che sia il frutto più coltivato al mondo, addirittura. Uno, perché si conserva molto a lungo. Due, perché è facilmente trasportabile. Questi sono due caratteri essenziali che hanno fatto sì che la mela si diffondesse così. Perché la pera, sapete, non è che si conserva tanto. Cioè, le pere, anche le pere, diciamo, le vecchie varietà da conservazione, si conservano un mese e mezzo. Frigorifero si conservano un paio di mesi. La mela, io le mele che raccolgo adesso le mangio a maggio, senza frigorifero. Quindi chiaramente, cioè, una mela fatta, diciamo, coltivata anche in intensivo, la golden che voi mangiate, normalmente sono le golden dell'anno prima, che si mangiano fino alla nuova raccolta. Sono sempre quelle, per cui è un frutto che si conserva in maniera straordinaria, e questo è stato, come dire, un grande vantaggio. Allora, è chiaro che, ecco, questa è la nostra ruggine toscana, che è molto simile a quella alla tua ruggine, molto simile, anche come sapore. Questa è la muso di bue. È ovvio che noi abbiamo mantenuto, come dire, i nomi, perché il nome comunque è espressione di cultura, Questa è una mela, appunto muso di bue per ovvi motivi, cioè proprio c'ha la forma del muso del bue. E è chiaro che il contadino lo vedeva spesso il muso del bue, perché era il suo, come dire, compagno di lavoro, e quindi, però spesso ci sono, cioè i nomi vengono o dal luogo, dal nome del contadino, dal nome della stagione, la giugnina, la marzola, cioè dal nome della stagione in cui matura, e quindi questo è fondamentale, mantenerli questi nomi, perché appunto spesso e volentieri questa frutta in letteratura non si trova proprio, perché sono varietà originate in un luogo, magari in montagna, e selezionate da quegli agricoltori per quel motivo, perché magari si conservavano bene, perché magari erano giuste per fare un determinato piatto, oppure andavano bene per quella determinata fiera, andavano per quel determinato mercato. Erano questi i motivi per cui si conservavano, chiaramente, cioè erano vari, per motivi religiosi, per motivi economici, per motivi culinari e molto spesso per motivi di conservazione proprio, cioè si conservavano. Quindi è fondamentale, questa è un'altra musa per esempio, anche questa è una mela, sempre da noi c'è questo grande gruppo, queste mele allungate che ricordano il muso del bue, e sono state raggruppate in un grande gruppo varietale. La rossa dentro incarnato, questa era la sua definizione rinascimentale. Chissà se è questa è rossa di pasta, ma questa è la melasona, suona, i semi si staccano a maturità e suona. Broccaia, rosa in pietra, questa è una mela per esempio straordinaria, si raccoglie a novembre, si comincia a mangiare a gennaio, come molte delle vostre mele peraltro. Quindi la rosona o rosa, anche questa è un'altra mela invernale, questa è una mela limoncella, questa c'è una storia, questa è coltivata in Italia da tempo immemorabile, in realtà probabilmente il luogo d'origine è la Campania, però durante il regno delle due Sicilie, quindi parliamo di due secoli fa, in realtà durante il regno furono, come dire, gli agricoltori furono invitati, obbligati diciamo così, a coltivare alcune varietà, tra cui questa. Per cui questa è arrivata in Sicilia si chiama mela cola alle pendici dell'Etna, in realtà è la stessa mela, è la limoncella, questa è una mela che ha avuto un grande successo perché è una mela a conservazione lunghissima. E i fichi, ora i fichi sono un altro grande capitolo, ma dormendo induce sogni gustosi, perché in realtà è un frutto dolcissimo, di zuccheri peraltro assolutamente digeribilissimi. In realtà qui parliamo proprio di una specie a rischio, perché il fico, non di varietà, addirittura di specie, perché il fico è considerato adesso una specie assolutamente sottoutilizzata, era diffusissimo in tutti i paesi del Mediterraneo, è una delle poche specie originarie del Mediterraneo, perché né la pera né la mela sono originarie del Mediterraneo, il fico sì. Il fico, la vite e l'olivo. Allora, il fico però c'ha lo stesso problema che vi dicevo delle pere estive. Allora, il fico è difficilmente trasportabile quando è maturo, non si può raccogliere prima della maturità, perché non è che si matura in frigorifero il fico va, si deve maturare in pianta, perché non esiste che si matura dopo. È chiaro che quando è maturo è difficilmente trasportabile, cioè il fresco è difficile da trasportare. Allora che succede? Che c'era questa grande tradizione dei fichi secchi, la seccatura, l'essiccazione dei fichi era una grande tradizione del nostro, ma del centro-sud, anche nel centro, da noi si sprecavano le fiere dei fichi secchi, c'erano, ce n'erano tante, è rimasto solo questa cosa che dici non vale un fico secco, per dire non vale, vale poco. In realtà è come dire, è una, invece non è vero, cioè il fico secco è come dire una grande riserva energetica, Però insomma era un frutto da poco e quindi in qualche modo veniva considerato poco. Tant'è che noi, per esempio, l'Italia che produce ancora fichi secchi, da dove li prendiamo noi? Dalla Turchia, come le nocciole, le albicocche secche, eccetera. E devo dire che è una grande perdita, ma non perché li prendiamo dalla Turchia, perché perdiamo tutte le nostre varietà. E vi assicuro che il fico invece è una pianta, da questo punto di vista, incredibilmente ricca, perché mentre alcune specie, tipo il pesco o il ciliegio, hanno avuto, come si dice, una grande pressione selettiva, cioè sono state fatte sempre nuove varietà, sempre diverse, quindi c'è stata una grande pressione. Nel fico, in realtà, il fico dottato che avete visto prima è lo stesso da 500 anni. Per cui nel fico io ancora riesco a trovare effettivamente delle varietà antiche. Quindi per questo che è incredibilmente interessante. Poi è chiaro che da noi il fico aveva grande importanza dal punto di vista simbolico e quant'altro. Io quando faccio le lezioni ai ragazzi del liceo, così, che fanno tutti i ganzi, no? Dico le parolacce, dico guardate che non vi siete inventati neanche le parolacce, perché le parolacce che vengono da questo frutto, in realtà, già i romani se le dicevano. Quindi dico, non vi siete inventati manco le parolacce, dico, quindi non c'è neanche gusto, no? E in realtà questo, diciamo, è una specie che andrebbe, per esempio, rivalorizzata moltissimo, perché è una specie che non richiede, cioè il fico non richiede nulla, cioè da noi era utilizzato addirittura per fare le scarpe ai bambini, perché il legno è, gli zoccoli, il legno è molto leggero e facilmente lavorabile, quindi c'erano queste ficaie immense, quasi anche da legno, ma solo per quello veniva utilizzato, perché il legno è troppo... questo è il perfetto stadio di maturazione del fico, è per questo che non si può raccogliere prima, deve avere il collo torto, la camicia da furfante e la camicia strappata e l'occhio lacrimoso, perché così è, come dire, e così si può raccogliere, prima non si può raccogliere. Questo è un fico da seccazione, fichi melanzana, fico brogiotto. Il brogiotto c'è ancora in giro, ma è una varietà che ha almeno 300 anni, quindi, come vedete, così come le pesche in realtà arrivarono con i romani, se vede che portarono delle pesche che non gli facevano. A Pompei c'è un affresco di pesche, un piatto di pesche, però i romani, si vede che queste pesche che arrivano dalla Cina, le pesche, facevano schifo evidentemente, le abbandonarono, non le coltivarono più, i romani proprio le lasciarono, ritornarono in auge nel tardo Medioevo, intorno al 1300 ritornarono le pesche, da lì furono coltivate molto. Nella zona di Papigno che ho fatto vedere prima arrivarono in quel periodo pesche sanguinelle, pesca settembrina, eccetera. Le susine lo stesso, anche sulle susine c'è una grande confusione. La susina anche è una specie orientale. Susine, pesche, albicocche, ciliegie, mandorle sono tutte specie orientali. Il mandorlo è il primo che arrivò, prima, tanto prima anche dei romani. Io parlo sempre dei romani perché i romani sono una sorta di spartiacque, perché sono i primi che hanno scritto di agricoltura, prima non ci sono documenti. Allora i romani hanno scritto, Columella, Virgilio, Plinio, cioè loro scrivevano, prima può darsi anche che ci fossero ma chissà. Per cui ecco, io dico prima e dopo i romani perché sono stati i primi a testimoniare l'esistenza di molte varietà. Le susine, chiaramente anche qui abbiamo una serie di varietà, diciamo cosiddette europee, per differenziarle da quelle cino-giapponesi. In realtà il susino è cino-giapponese, però molte varietà sono arrivate 1000 anni fa e chiaramente si sono, come dire, ambientate, si sono originate delle varietà diciamo, europee e locali. Adesso stanno arrivando altre varietà molto più grosse, molto più produttive, ma assolutamente senza sapore. E lì lascio a voi la scelta, nel senso che se volete mangiare una susina grossa come una pesca, mangiate quelle. Se volete mangiare una susina con un sapore, mangiate altre, cioè mangiate le nostre, perché sono molto diverse. Lo stesso il discorso delle ciliegie. Le ciliegie è una specie, anche questa orientale, arrivata poco prima di Plinio, ha sostituito altre specie molto ambita, molto coltivata. Di fatto anche qui, per esempio, in Italia si coltivano quasi tutte varietà francesi, moltissime varietà francesi. Sono poche le varietà selezionate in Italia, coltivate da lungo tempo in Italia. Ed è un peccato perché in realtà anche qui ci sarebbero delle grandi sorprese. La stessa cosa con le amarene e le visciole. Tra l'altro si diceva proprio ieri, in realtà questa è una specie, questa è diverse, Prunus avium è il ciliegio dolce, diciamo così, e Prunus cerasus è questo ciliegio acido, che ha differenziato tantissime varietà. Amarene, visciole, marasche, è sempre la stessa specie, sono gruppi varietali diversi. E, tra l'altro, hanno scoperto, per esempio, che le visciole, che sono quelle più nere, quelle proprio nere, che hanno un succo molto scuro, anche lì gli antociani, che sono quelli che danno la colorazione rossa, sono degli straordinari antiossidanti. In più è stato fatto questo confronto. Infatti stanno provando ad estrarli per poterli utilizzare nella conservazione di altri alimenti, perché questi sono assolutamente naturali. Oltre questo, in realtà si è visto che circa 25-30 di queste visciole funzionano come un eccellente antidolorifico, più o meno come un'aspirina forte. Senza controindicazioni, a meno che uno non si mangia il nocciolo, però ecco, voglio dire, ecco, uno deve stare attento a non mangiare il nocciolo. Però per dirvi che spesso, no, noi abbiamo abbandonato, siamo stati dei gran sciuponi, come dire, abbiamo buttato via tante cose che invece adesso risultano essere molto preziose per tante cose, perché siamo nel 2006, la modernità ci ha portato, è vero, un gran sciupio, ma ci ha portato anche dei sistemi di analisi e di estrazione che prima non esistevano. E grazie a questi noi possiamo anche rivalorizzare molte di queste specie e varietà proprio in funzione di questi nuovi utilizzi, perché la visciola in realtà era coltivatissima, non è più coltivata perché in realtà deve essere raccolta a mano, va mangiata solo trasformata, e chi lo fa più? No, va bene, si abbandona. In realtà è stata scoperta quest'altra funzione importantissima, quindi sarebbe importante ricoltivarla, quindi ridargli, come dire, una nuova vita. Lo stesso per altri frutti che, come dire, la cotogna è vero che voi la conoscete bene, c'è nei giardini, in realtà era una specie coltivatissima per una funzione importante, perché era un conservante naturale, cioè si metteva in tutte le marmellate perché conservava e c'aveva la pectina, molta pectina che è un addensante. Adesso io vado al supermercato, compro la bustina di pectina, me la metto polverina e via, faccio la marmellata. Per cui l'uso fondamentale della nespola, scusa, della cotogna è in qualche modo si è perso. Le giuggiole, non so se voi la conoscete come frutto, viene dalla Persia, era un frutto, da noi c'era il famoso brodo di giuggiole, che è una specie di sciroppo stucchevolmente dolce, però insomma il dolce era una cosa preziosa, quindi si utilizzava. È una pianta molto bella, è utilizzata molto in Spagna, anche nel nord Italia, perché questa fu portata dai durante le repubbliche marinare a Venezia ci sono dei boschetti, perché chi aveva più giuggioli aveva e più era ricco, come dire, più commerci aveva con l'Oriente, era questo simbolo di ricchezza. Le nespole lo stesso, il nespolo che poi è germanico, perché Linneo quando lo classificò pensava che venisse dalla Germania, perché diciamo in tutto il centro Europa era utilizzatissimo, in realtà viene dal Caucaso, ma era utilizzato molto perché astringente, tant'è che tutte le nostre nonne ci dicevano non mangiare più le tre nespole perché dopo se ne parla più, allora però è una, in realtà ha una funzione straordinaria come astringente, come disinfettante intestinale. I sempre fantomatici e fatidici romani in realtà lo sapevano bene, visto che se mangiavano le peggio schifezze, la carne è andata male, queste salse fatte con il pesce fermentato di non so dove, ovvio che ci avevano problemi intestinali. Quindi ci avevano addirittura tipo 15-20 varietà di nespoli, quindi era proprio una specie coltivata e tenuta in grande considerazione. Le sorbe lo stesso, questo è Sorbus domestica, grande albero, grande pianta, adesso è considerata una pianta da bosco, poco più, perché è una pianta che, diciamo, il cui frutto quasi non si conosce quasi più. Il corniolo lo stesso, il corniolo in realtà è una pianta da bosco, ma era una pianta importantissima sia per il legno. Cornus viene da corno, cioè il legno è duro come il corno, quindi, e tra l'altro è un frutto estremamente ricco di vitamina C, quindi sarebbe auspicabile il suo utilizzo. Il lavoro di salvataggio che è stato fatto è stato un lavoro di grande pazienza e di ricerca. Quello è il mio babbo, e quello sono io, facciamo finta di guardare delle melecotogne, no, in realtà le guardiamo, ma in realtà il lavoro di salvataggio è stato un lavoro, come dire, quasi banale, cioè è stato un lavoro di ricerca delle piante di innesto, perché tuttora l'innesto è il sistema, come dire, che funziona, un sistema semplice, valido fin dagli assiro-babilonesi che l'avevano inventato, e la cosa straordinaria è che non è cambiato per niente, cioè ancora è lo stesso identico sistema, cambia, sì, l'etichetta ovviamente non è più quella, e magari, che ne so, il mastice che si usa è, se vogliamo, frutto di magari di una ricerca un pochino più moderna, ma il sistema è quello. Allora si guarda ancora alla luna, quindi, per dirvi che no, è chiaro che questo ha portato a questa collezione. In realtà le piante sono state ripiantate nei filari. Quello che vedete in primo piano è un acero, gli aceri campestri erano i mariti delle viti, da noi c'erano gli aceri maritati alle viti e nei filari, e poi c'erano anche le piante da frutto, spesso erano maritate alla vite o servivano da tutori delle viti, e poi c'erano i campi coltivati in mezzo, cioè i gradoni, e qui siamo in collina, quindi era gradonato, terrazzato. Era, ti ripeto, un terreno piuttosto difficile. Noi abbiamo ripiantato là dove c'erano le piante, e sono, attualmente ci sono circa 400 piante. Ripeto, noi abbiamo poi lavorato sulla nostra zona, e nonostante che la nostra zona non sia una zona frutticola, abbiamo trovato una grande ricchezza. Quindi quando mi dicono che hanno malince niente, io vado subito, perché è il momento che trovo, cioè in realtà grazie a Dio ancora non so, l'Europa c'ha questa grande ricchezza, alcune zone dell'Europa c'hanno questa grande ricchezza ancora, e si diceva stamattina con Sofì che ancora si leggono i segni di un passato anche remoto, anche remoto, e questa è una ricchezza straordinaria, cioè dove mai la trovate questa stratificazione ancora evidente di passaggi dagli etruschi in giù, cioè voglio dire, sono migliaia di anni e ancora voi ritrovate questi passaggi della vite maritata o in un sistema di potatura. Sono sistemi antichi in cui si legge un passato, in cui si legge una stratificazione, ed è quello che noi, diciamo, penso abbiamo il dovere di salvare, perché sono quelle le nostre radici ed è, come dire, un sapere peraltro straordinario. Adesso nessuno sa più fare un innesto. Allora, l'innesto, ripeto, è una pratica antichissima. Ma perché abbiamo persa questa cosa? Non è che ci vuole tanto. Allora tutti mi dicono, ah no, ma ci vuole tempo a stare dietro le piante. Scusate, io faccio un conto. Quante ore state davanti al computer? Ah, ci sto 5-6 ore. Dico, bene, 5-6 ore al giorno? Dico, guarda, la pianta ha bisogno di molto meno. La pianta tu la guardi nelle stagioni giuste, fai un giorno al mese? Forse un giorno al mese. Allora, proviamo a fare anche questi conti. Allora, vuol dire che in realtà non è vero che ci vuole tempo. Cioè, ma bisogna, come dire, ridare l'importanza anche a queste cose, no? Saper fare un innesto non è un hobby, è, come dire, riavere questo rapporto con le nostre piante, col nostro territorio. Ed è, va sicuro, io l'ho insegnato alle mie figlie perché credo che sia importante. Poi che lo usano o non lo usano, quello, vabbè, mica uno tutti i giorni fa gli innesti. Loro probabilmente hanno questa fortuna, ma altri no. Però non è vero che è poco importante, è importante, perché conoscere il momento, il sapere il momento in cui è giusto fare un innesto, invece il momento in cui non è più giusto, è tardi, è presto, è importante come sapere tante altre cose della nostra terra. E quindi credo che è questo che poi noi abbiamo fatto e abbiamo cercato di fare. Tutto questo è stato fatto in tanti anni senza avere un supporto dal pubblico, dalla parte pubblica. Noi abbiamo fondato un'associazione che si chiama Archeologia Arborea, si adotta una pianta della collezione, era, come dire, è stato un sistema per dare un sostegno più morale che materiale, va sicuro, ma comunque un buon sistema. Allora il socio adotta la pianta, viene a raccogliere i frutti se vuole, però ne deve lasciare tre, perché una nostra antica tradizione diceva che bisognava sempre lasciare tre frutti sulla pianta, uno era per la terra, uno per il sole e uno per la pianta, che poverina, aveva tanto lavorato, non gli vuoi lasciare niente? Qualcosa bisogna lasciargli. In realtà, se voi pensate bene, era, come dire, cioè aveva un fondo di grande, come dire, di grande sapere, perché era, come dire, lasciare qualcosa per il futuro. Era, poi non è vero che io non riproduco da seme il melo, però era un modo per lasciare qualcosa per l'anno dopo, per due anni dopo, per il futuro. E questa è, come dire, il grande sapere, questa è la grande cultura. Quindi, diciamo, tutto questo era proprio per, come dire, per conservare, per studiare. Io non so se sono riuscita poi a trasmettervi questa grande volontà. Va sicuro che sono stati momenti anche duri, perché quando arrivi a trovare una pianta e a un certo punto la vedi che l'ha tagliata, che questa non picciava, come la taglia? Era l'ultimo esemplare dell'ultima pianta. Capito? Perché arrivare tardi, per dire, tante volte ci è arrivata tardi e non ho potuto replicare la pianta. Oppure, che ne so, la comprensione di tutto questo. Arrivano, capito, la gente dice, ah, ma tutto qui, ma è possibile che non capisci che dietro un esemplare di una pianta c'è un lavoro di 20 anni di ricerca, eccetera? Perché spesso succede anche questo, che no? Magari siamo abituati all'immagine grande, bella, però non si capisce quello che c'è dietro. In realtà tutto il nostro lavoro è stato fatto per questo, per, diciamo, per proprio per tentare di riannodare i fili di questa memoria e soprattutto per ringraziare gli agricoltori che, nonostante tutto, qualcosa hanno conservato. Grazie a tutti.